sei un uomo, sei un gay, se ti metti a piangere non sei un uomo. E papà, una brutta fine. Non sei un uomo. Della democrazia. Il 100% degli elettori ha votato per il fronte dell'uomo qualcuno. E ora lo zecchino d'oro.